c'è un tema del cosa significano questi fondi in più. La ricerca è condotta ormai da 5 anni dalla campagna internazionale ICAN, Premio Nobel per la Pace 2017, di cui facciamo parte e che ovviamente si occupa di disarmo nucleare. In questi 5 anni la spesa per gli arsenali nucleari è cresciuta del 34%, quindi al di là dell'enorme spreco di risorse c'è un tema di grave pericolo all'orizzonte, cioè tutte le potenze nucleari, tutte, stanno ammodernando i loro arsenali, aumentando le loro capacità di dispiegamento di rete state o rendendole più moderne. Questo significa che stanno sempre di più mettendo al centro delle questioni di sicurezza internazionale delle armi di distruzione di massa, delle armi che se utilizzate, quindi con un'escalation di scontro nucleare, porterebbero alla devastazione su tutto il globo. È questo il vero pericolo ed è questo che i numeri ci dicono, non solo quelli legati appunto alla spesa per arsenali nucleari, ma quelli legati proprio alle testate, vedendo che il numero totale è più o meno lo stesso, ma quelle pronte all'uso, soprattutto quelle dispiegate su missili o aerei, stanno aumentando, e stanno aumentando non solo con una possibile attività di prontezza da parte della Russia e degli Stati Uniti, ma anche della Cina. Stiamo parlando di quasi $3,000 al secondo, e voi avete fatto anche una sorta di esercizio su quei soldi, a cosa sarebbero invece potuti servire? Certo, perché ovviamente, come per tutte le nostre proposte e tutte le nostre indicazioni, noi non solo sottolineiamo la problematicità di una scelta di militarizzazione, in questo caso una militarizzazione appunto con armi di distruzione di massa, ma sottolineiamo quanto invece questo profitto, che peraltro è un profitto che poi fanno anche le aziende legate alla produzione di armi nucleari, ma questo è un altro capitolo, si sarebbe potuto invece spostare questo investimento su altre situazioni che diminuiscono le problematiche globali e quindi portano a una maggiore pace. Per esempio, col totale di questi 91,4 miliardi di cui abbiamo detto, si potrebbe installare l'energia eolica per più di 12 milioni di case e quindi combattere il cambiamento climatico. Coprire il 27% dei fondi mancanti per combattere lo cambiamento climatico. Ogni novembre alle COP, incontri internazionali sulla crisi climatica, si promettono fondi, si promettono iniziative per quantomeno mitigare gli impatti devastanti che la crisi climatica sta avendo, e non si riesce a trovare tutti i soldi possibili. Ecco, quindi alcune indicazioni, per esempio, in questo senso le abbiamo date come campagna italiana e campagna internazionale, senza dimenticare che questi 5 anni di spesa per le armi nucleari, quel costo che appunto è stato valutato da ICAN nell'ultimo quinquennio, avrebbe potuto sfamare 45 milioni di persone che attualmente rischiano la fame. Ecco, noi pensiamo che investire nelle armi nucleari ci porta sempre di più verso uno scontro, verso un'idea devastante di guerra, mentre investire in tutte quelle cose che migliorano la vita delle persone ci porta verso un'idea di pace e verso una pace concreta. Queste spese a guidare la classifica sono sempre gli Stati Uniti. Sì, e questo è, credo che sia rilevante dal punto di vista politico. Giustamente, e anche noi l'abbiamo fatto, negli ultimi 2 anni si sono sottolineate le gravi minacce di utilizzo di armi nucleari che sono venute dalla Russia, da Putin, da Medvedev, e la retorica del attenzione, non potete toccarci perché abbiamo le armi nucleari, cosa che peraltro è avvenuta anche da parte di un paio di ministri del governo israeliano che hanno suggerito, tra virgolette, la soluzione finale di Gaza proprio con un'atomica, non capendo nemmeno gli impatti che avrebbe su Israele stesso. Però al di là delle minacce retoriche poi ci sono le situazioni concrete, e appunto vedere che gli Stati Uniti da soli spendono più di tutti gli altri paesi, gli altri 8 paesi che hanno una spesa per le armi nucleari, perché hanno una arsenale nucleare, dimostra che al di là delle retoriche poi ci sono le scelte concrete. E purtroppo anche gli Stati Uniti, ma anche lo stesso Regno Unito, che negli ultimi anni non ha speso poco, oltre che la Francia, cioè paesi che consideriamo democratici, che consideriamo non problematici da questo punto di vista, invece stanno modernando i loro arsenali, e questo è un problema al di là delle parole, al di là delle retoriche. Certo, le politiche contano, ma poi contano anche le scelte concrete. Ecco, è interessante, nel rapporto sono presenti anche dei dati su quanto le aziende che producono queste armi spendano per fare lobby, e questo è interessante. Però a settembre ci sarà una mobilitazione. Sì, proprio perché noi crediamo che questi dati e le considerazioni che si portano dietro debbano essere conosciuti per 2 motivi. Uno, per capire che nonostante le dichiarazioni purtroppo si va in una direzione sempre più di confronto nucleare, e le parole di Stoltenberg di questi giorni sono indicative in questo senso, e questo tipo di scelta dovrebbe essere messa al centro del dibattito democratico. Non è più possibile continuare a sentire Stoltenberg che dice noi dobbiamo decidere che tipo di dispiegamento nucleare avere, ormai siamo sicuri per esempio che gli F-35 35 olandesi hanno una capacità nucleare, probabilmente ce l'hanno anche quelli italiani, ma tutta questa cosa non viene discussa, non viene messa al centro del dibattito democratico. Le persone davvero vogliono che la loro sicurezza sia basata sull'uso di armi nucleari e sull'investimento delle armi nucleari. Quindi questo è il primo obiettivo di questa settimana di azione globale, che poi ovviamente vorrà anche ragionare con quanti soldi vengono messi per le armi nucleari, quindi il solito dilemma dell'investimento di spesa militare e chi trae profitto direttamente da queste scelte di bilancio militarizzato. Lo faremo proprio dal 16 al 22 settembre, perché in quel periodo ci sarà anche l'incontro voluto dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per una nuova agenda di pace e sul futuro della Terra, e noi proprio in quei giorni vorremmo far capire che non si può avere un futuro positivo in pace se continueremo a investire su armi di distruzione di massa.